Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo appuntamento di questa settimana che continua per tutto l'anno con l'Adico. Un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, l'argomento di questa settimana è importante, siamo nel clou delle vacanze e ahimè, cosa può capitare di peggio in una vacanza dove prendi l'aereo e perdi le valigie? È successo a una signora che andava a fare un viaggio a Dubai. Che cosa ci racconti, Carlo? Sì, allora innanzitutto Francesco, questo è l'ennesimo caso di persone che si sono trovate ad avere dei disagi durante una vacanza e che si sono rivolte allo sportello vacanze informate che l'Adico ha attivato qualche mese fa e di cui già abbiamo decine e decine di segnalazioni, ed è un sportello appunto che per tutti questi casi ci sono sempre degli esperti che anche tutto il mese di agosto sono qui in sede a dare dei consigli alle persone. Nel caso specifico della signora è un caso anche abbastanza incredibile, perché una signora che dopo 8 anni finalmente è riuscita a organizzarsi la crociera della vita, ha preso l'aereo, è sbarcata a Dubai, si è imbarcata in una nave da crociera per 21 giorni di navigazione presso la parte orientale del nostro pianeta, e purtroppo non gli sono state recapitate le valigie e sono smarrite, e conseguentemente qua è iniziata tutta l'odissea della nostra signora. Che ovviamente cosa avrà fatto? Si sarà impegnata a cercarsi un po' di effetti personali, di qualcosa per continuare il viaggio ovviamente. Certo, allora quando capitano queste cose, che una compagnia di viaggio smarisce le valigie, chiaramente le persone sono tenute a doversi comprare tutto quello che è necessario per poter garantirsi un minimo, perché comunque la signora pensiamo che ha speso solo 500 euro in 3 settimane per potersi cambiare, comprarsi qualche vestito e comunque sostenere anche tutte quelle che erano delle necessità che poi la signora ha dovuto sostenere in questi 21 giorni per effetto anche delle variazioni di clima che comunque in questa crociera ha dovuto giorno per giorno affrontare. E a rientro ha chiesto il rimborso di questi 500 euro che lei ha speso e ha trovato purtroppo l'amara sorpresa che sia il tour operator che la compagnia di viaggi non gli hanno voluto riconoscere, in quanto purtroppo non è stata in grado di documentare le spese realmente sostenute, perché sappiamo che in quei paesi non esiste lo scontrino fiscale, per cui non ha avuto la possibilità di poter dimostrare quanto ha realmente la signora dovuto sostenere. Cosa avrebbe dovuto fare? Mentre pagava, scattare delle fotografie? Non lo so, cioè, in questo caso è una cosa assurda, no? È una cosa assurda, e anche qua l'ufficio legale lo ha rimarcato, perché innanzitutto già dalla cifra che la signora ha voluto richiedere, 500 euro per 21 giorni, capiamo che la signora veramente si è limitata a comprare lo stretto necessario. Certo. Però è anche vero che purtroppo le compagnie di viaggio sanno benissimo che in certe località non è pensabile poter documentare quanto speso. Noi dal canto nostro diciamo che la signora comunque si è comportata bene, perché non ha chiesto i 10.000 euro di rimborso per pellicce o robe che ha comprato, ma ha chiesto solamente 500 euro, per cui anche a fronte di quella che è una cifra ragionevole, troviamo incredibile come sia la compagnia di viaggio sia il tour operator si sono rimbalzati la responsabilità, ma non rimborsando ancora la signora. Dal canto nostro, come Adico, dovendo anche rimarcare non solo i disagi, ma evidenziando anche l'unicità della vacanza, in quanto sappiamo che non tutti nella vita hanno l'occasione di fare 21 giorni di crociera, e la signora, avendola organizzata 8 anni prima per poterla finalmente realizzare come sogno della vita, abbiamo chiesto 5.000 euro di danni morali, perché sappiamo che dal 2012, per effetto delle nuove normative e del codice del consumo, il consumatore ha diritto anche un rimborso ai danni morali in virtù di quella che può essere o meno l'unicità di una vacanza rispetto all'altra. Certo, quindi speriamo che insomma la vostra azione vada avanti e che dia almeno un po' di sorriso a questa signora che si sarà goduta la vacanza, ma in una maniera un po' più infelice, diciamo così. Beh, sicuramente la signora ha fatto bene a rivolgersi all'Adico, perché comunque sicuramente otterrà tutto quello che gli sarà dovuto. Certamente ci dispiace rimarcare quello che sono degli atteggiamenti che hanno certi tour operator che con troppa facilità sono bravi a far firmare contratti o a proporre clausole assicurative di un tipo rispetto di un altro, ma poi altrettanto scopriamo che non sono altrettanto solerzi a dover rimborsare il consumatore quando si trovano nelle condizioni più incredibili, come il caso della signora. Nel caso comunque specifico, noi ricordiamo a tutti i consumatori appunto che c'è questo sportello di vacanza informata presso l'Adico, e chiunque si possa essere trovato in una condizione spiacevole rispetto a un'altra e possono contattarci tranquillamente dal lunedì al venerdì, anche durante questi giorni di Ferragosto, fin dalle 9 alle 19, e ottenere tutto quel tipo di assistenza e informazione che è giusto che ottengano. Certo, basta cercarvi insomma in internet Associazione Difesa Consumatori, certo. A Mestre, quindi vi trovano senz'altro. Ci trovano senz'altro, e come consiglio, ecco, nel caso che qualcuno si trovi in situazioni spiacevoli, raccogliere più documentazione possibile, fotografare eventuali situazioni o merce come nel caso della signora, o raccogliere delle testimonianze qualora che sia in compagnia e non sia da soli. Certo, grazie a Carlo Garofolini, alla prossima occasione. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.